Un'altra radio. Roma. È una radio che potrebbe avere effetti indesiderati e anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Amore appena nato e già. Pensa chi è innanzi in da sta vita, pensando da resta sempre che è difficile pensarmi se mi sposa volesse danzare che lo sogno che hai fatto insieme. Strada, nella vita che io facevo.